Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Nobel della pace a sorpresa va al presidente americano Barack Obama, prima reazione dalla Casa Bianca in 3 lettere, wow! Collaboro col Quirinale ma tutti sono di parte, dice Berlusconi, io il più processato. Via libera dal Consiglio dei Ministri alla riforma Brunetta della pubblica amministrazione. L'Italia uscirà dalla crisi meglio di prima, lo dice il presidente della BCE, ma non si possono rinviare le riforme, aggiunge. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura, dunque, il premio Nobel per la pace assegnato al presidente americano Barack Obama. Ci aggiorna in diretta Adriana Fracchi. Adriana. Sì, buongiorno. Il premio Nobel per la pace 2009 assegnato al presidente degli Stati Uniti Barack Obama per i suoi sforzi straordinari nel rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli. Questa la motivazione. The committee endorses Obama's appeal that now is the time for all of us to take over share of responsibility. Quella che state sentendo è appunto la motivazione letta dal presidente del Comitato per il Nobel Jagland. Raramente, ha detto ancora, qualcuno è riuscito come Obama a catturare l'attenzione del mondo e a dare una speranza per un futuro migliore. Uomo della mediazione, primo afroamericano a rivestire la più alta carica degli Stati Uniti, Obama, 44esimo presidente americano, ha rilanciato il dialogo con il mondo musulmano e ha affrontato il delicato tema dei rapporti con l'Iran, avviando un'intensa campagna contro la proliferazione nucleare e impegnandosi per la pace globale. Le prime reazioni per il presidente afghano Hamid Karzai è la persona giusta per questo riconoscimento, mentre un consigliere del presidente iraniano Ahmadinejad ha detto che questo Nobel per la pace dovrebbe incoraggiare Barack Obama a porre fine all'ingiustizia del mondo. Primi commenti ottimistici anche dal Medio Oriente e sorprese in America, poiché il presidente Obama è soltanto all'inizio della sua opera. Condanna invece da parte dei talebani per questo riconoscimento. La prima reazione a caldo della Casa Bianca, come ha ricordato nei titoli Simone Spezia, è stata quella del portavoce presidenziale Robert Gibbs, che in una mail ha scritto un'esclamazione sorpresa scritta a lettere maiuscole col punto esclamativo. Wow, questa è la prima reazione. L'ultima cosa, una curiosità, nel 1907 il primo ed unico italiano che conquistò il Nobel per la pace fu il giornalista e patriota Ernesto Teodoro Moneta. Ed è tutto. E grazie Adriana Fracchia, poi naturalmente si attenderà per lunedì il premio Nobel per l'economia, che è l'ultimo di quest'anno. Intanto sentiamoci l'analisi sul premio Nobel per la pace del corrispondente del Sole 24 Ore da New York, Mario Platero. Dopo le difficoltà, una buona, ottima notizia per Barack Obama, il premio Nobel per la pace, diciamolo a sorpresa e inatteso persino alla Casa Bianca, riporta il presidente americano al centro dell'attenzione con una forte energia positiva, quell'energia positiva che ha sempre caratterizzato l'immagine e il messaggio di Obama e che con la presidenza è poi riuscito a tradurre in azione. In effetti le motivazioni del premio sono reali, la deviazione dall'unilateralismo verso il multilateralismo, il recupero forte del ruolo dell'ONU, l'avvio solenne proprio al Consiglio di sicurezza di un processo per avere un mondo senza armi nucleari, l'incontro sempre all'ONU con Netanyahu e Abu Mazen e l'avvio di una nuova fase nel processo di pace in Medio Oriente, la mano tesa all'Iran, nonostante le mille provocazioni di Ahmadinejad, che ha già portato ai risultati incoraggianti del vertice di Ginevra di una settimana fa. Tutto vero, ma anche tutto da fare. Questo premio Nobel rischia di essere un premio alle intenzioni, una cambiale in bianco, visto che i processi sono appena avviati. Ma è anche un potente endorsement, un appoggio forte. Prima di lui solo un altro presidente americano ha avuto il Nobel per la pace quando era la Casa Bianca, Teddy Roosevelt, e parliamo del 1906. Prendiamo dunque questo premio come un appoggio benvenuto per aumentare la forza e la credibilità di questo giovane presidente quando la traduzione dell'idealismo in pratica incontrerà gli inevitabili scogli. E c'è la prima reazione di Obama, il quale si dice onorato dal riconoscimento e dice che riceve il premio con umiltà. Dal premio Nobel per la pace andiamo al clima non proprio pacifico che si respira dalle parti della politica italiana. Vincenzo Miglietta, gli aggiornamenti sulla vicenda del lodo Alfano e seguiti. Sì, buongiorno. Conferenza stampa poco fa di Silvio Berlusconi. Il premier è tornato su Lodo Alfano sui rapporti con il presidente della Repubblica Napolitano. Ha bocciato quindi l'idea delle dimissioni. Ha difeso l'operato del governo. È un Berlusconi decisamente rilassato, quello che ha affrontato proprio i giornalisti al termine del Consiglio dei Ministri. Va avanti per realizzare quanto promesso in campagna elettorale, ha fatto capire il Cavaliere, che ha spiegato: non mi dimetto anche perché sono il miglior premier di sempre. Poi sulla Corte Costituzionale, il comportamento della Consulta, ha detto Berlusconi, è stato non leale verso il Parlamento, e io credo che la lealtà sia importante nei rapporti tra istituzioni. Il fronte giudiziario tuttavia non preoccupa il Presidente del Consiglio: andrò in TV e spiegherò che sono cause farsa contro di me. Ma su questo ascoltiamo proprio Berlusconi. Sono in assoluto il maggiore perseguitato dalla magistratura di tutte le epoche, di tutta la storia degli uomini in tutto il mondo, perché ho subito più di 2500 udienze. I rapporti quindi con il capo dello Stato, avremo una coabitazione che io immagino leale, come deve essere in una democrazia, dice Berlusconi, che aggiunge: non siamo però ipocriti e guardiamo le cose per come sono. Allora, se uno è di centrodestra, è il ragionamento di Berlusconi, e un'altra persona è di sinistra, non fingiamo di essere super partes. Infine l'attacco al Corriere della Sera: abbiamo la sfortuna, spiega Berlusconi, che il primo quotidiano italiano è passato dall'essere un foglio conservatore della buona borghesia italiana ad un foglio di sinistra. E da Roma è tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Proprio al tema dei rapporti tra Berlusconi e la magistratura era dedicato il nostro sondaggio di oggi. Ebbene, sentiamo com'è andata. Il rapporto tra Berlusconi e i magistrati, si sa, è burrascoso dal 94, con alti e bassi. Celebre l'aneddoto che un giorno raccontò il premier. Mio padre diceva una cosa che vi dico, ma sì, ve la dico. Diceva che se uno nasce col piacere di fare il male, ha tre scelte: può fare il delinquente, o il PM o il dentista. I dentisti si sono emancipati e adesso esiste l'anestesia. Bocciato il Lodo Alfano, ripartono i processi che lo vedono imputato. E allora vi abbiamo chiesto: ma secondo voi Berlusconi è perseguitato dai magistrati? Lo è solo per il 40% di voi, mentre 6 ascoltatori su 10 ritengono la magistratura in buona fede. Fabio Roia, magistrato del CSM, replica così agli aneddoti del premier. Sembra così sgradevole e fa male, devo dire, all'Italia, perché un Presidente del Consiglio che delegittima una sua istituzione, del Paese che governa, mi sembra una cosa così rattristante per i cittadini prima che per i magistrati. Bianco o Nero torna lunedì mattina. Per votare basta andare su radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. In tutto ciò ci sono novità giudiziarie, ossia è ripreso il processo Mills a Milano. Ci colleghiamo con la Procura, col Tribunale di Milano, dove c'è Raffaella Calandra. Raffaella. Sì, dopo 2 anni di istruttoria e una mareggiata di carte, non ci sono fatti nuovi e non servono teste nuovi. Il procuratore generale di Milano, Laura Bertolebiale, chiede quindi di respingere tutte le eccezioni sollevate nelle motivazioni d'appello dalla difesa di David Mills, ed è quindi parere negativo anche all'esame dell'ex coimputato Silvio Berlusconi, inserito nella lista teste in attesa che il suo processo riprenda. Il nome del premier questa mattina, alla cui posizione fu stralciata una volta approvato il Lodo Alfano, ora bocciato, è stato ripetuto ovviamente più volte nel ripercorrere le tappe di questo processo, dalle deposizioni sotto accusa di Mills nei procedimenti Oliberian e Guardia di Finanza, e nel ripercorrere le tappe del rapporto tra l'avvocato inglese e la Fininvest, per cui lo stesso Mills aveva costituito le società all'estero. Mills sapeva che Berlusconi era il beneficiario di quelle società estere costituite, dice l'accusa, per sottrarle alle leggi italiane. Prima della PG, dopo un blackout causa temporale, il relatore Domenico Spina aveva sintetizzato le posizioni delle parti davanti ai colleghi della seconda Corte d'Appello di Milano, che potrebbero avere anche tempi non lunghi nell'arrivare al secondo verdetto sul caso Mills. E per ora dal Tribunale è tutto. E grazie Raffaella Calandra, che ci parlava del blackout al Tribunale di Milano causa pioggia. E sotto la pioggia a Milano si è svolta la manifestazione principale per lo sciopero dei metalmeccanici della FIOM di oggi. Ci aggiorna in diretta Stefano Totoro. Stefano. Sì, buongiorno a voi ai nostri ascoltatori. Sospendere la trattativa che Federmeccanica sta facendo con due organizzazioni sindacali e portare al voto i lavoratori. Questo hanno chiesto circa 100.000 persone nella manifestazione organizzata dalla FIOM CGL a Milano, organizzazione sindacale che pochi giorni fa, lo ricordiamo, ha abbandonato il tavolo di trattative con gli industriali, isolandosi rispetto ad una piattaforma contrattuale condivisa da CISL e UIL. Il segretario nazionale della FIOM Gianni Rinaldini ha chiesto dal palco che si portino i lavoratori al voto e che si consenta loro di scegliere fra le due piattaforme. La fitta pioggia, come dicevate da studio delle prime ore del mattino a Milano, non ha frenato la protesta dei lavoratori metalmeccanici che hanno sfilato per le strade del centro per affollare poi Piazza Duomo, preoccupati soprattutto per la crisi economica e per i licenziamenti. Accanto a loro anche il leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro e dal Sudan in collegamento telefonico ha voluto esprimere la propria solidarietà anche il fondatore di Emergency, Gino Strada. È tutto, a voi. Grazie Stefano Totoro, noi restiamo nel capoluogo lombardo per parlare però di teatro, perché inizia questa sera al Teatro degli Arcimboldi di Milano la tournée Certe Notti, creata per arte e balletto su musiche, canzoni e poesie di Luciano Ligabue. Il coreografo Mauro Bigonzetti al microfono di Floriana Liuni. Ho perso le parole. In Italia sia la prima esperienza, anche all'estero insomma sono state fatte delle cose, ma però credo che questo lavoro qua ci abbia una sua originalità, no? Perché poi è una parola non tanto bella, no? Originale, originalità, però in effetti è una fusione di linguaggi e di mondi che così sulla carta non sono così semplici insomma da mettere insieme, perché mette insieme appunto dei generi come alla fine anche musica e cinema. Sì, ci sono dei dialoghi, sì, sono dei dialoghi dei suoi film, ci sono 7 poesie che lui ha estrapolato da questo libro di poesie Canzoni d'amore nel frigo, anche alcune cose prese dalla colonna sono arrivate a Freccia, per cui delle cose non cantate, soltanto musicali. C'è un suo arrangiamento per banda di paese su una canzone di Elvis Presley, insomma c'è tutto l'universo di Ligabue, non sono soltanto le canzoni di Ligabue. Fatto con i ragazzi, prendere questa vitalità, questa corporeità, questa fisicità, sensualità che c'è nelle canzoni di Ligabue e renderla movimento, gesto, coreografia, spettacolo, puro spettacolo, è uno spettacolo di danza che diventa teatro a 360 gradi. Grazie mille. Le 13, 15 minuti, 43 secondi nella prima parte del giornale radio. Abbiamo parlato del Nobel della pace a Barack Obama, abbiamo parlato di politica con le nuove parole di Berlusconi dopo la bocciatura del lodo Alfano e abbiamo parlato dello sciopero dei metalmeccanici della FIOM. Apriamo questa seconda parte con le parole del presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet, che a Venezia ha parlato espressamente dell'economia italiana. La crisi finanziaria internazionale ha mostrato lo stato di salute della finanza privata in Italia. L'Italia non si è mai lasciata andare gli eccessi finanziari del passato recente, dice Trichet, che si dice anche fiducioso che alla fine prevarrà lo spirito imprenditoriale che nei geni di questa nazione, che le imprese italiane usciranno dalla crisi meglio di prima. Ma raccomanda la guida della Banca Centrale, le riforme economiche non possono essere ritardate, tra queste una riforma del mercato del lavoro che premi la produttività. E proprio una maggiore produttività, in questo caso della pubblica amministrazione, è alla base della, o almeno è uno degli obiettivi della riforma Brunetta che è stata approvata oggi dal Consiglio dei Ministri. Ci colleghiamo in diretta con Palazzo Chigi con la nostra Alessandra Schepisi. Alessandra. Buongiorno, e così arriva la stretta per gli impiegati statali fannulloni dal Consiglio dei Ministri, infatti disco verde alla riforma che premia i meritevoli e punisce gli improduttivi. Il cardine è il meccanismo degli incentivi economici legati ai risultati, ma anche delle sanzioni disciplinari fino al licenziamento per chi non lavora. Visibilmente soddisfatto il ministro Brunetta, che come si sa ha fortemente voluto questa riforma, che è una riforma che non sarà però una crociata contro i dipendenti, ha spiegato Brunetta, ma una riforma nel segno dei più trasparenti, più rigore, più mobilità. Sarà operativa dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con una sperimentazione che durerà 2 anni. Palazzo Chigi ha poi affrontato la questione di fondi, ma senza sciogliere il comune per infiltrazioni mafiose. L'abbiamo risolta, ha detto il ministro dell'Interno Maroni. Il Consiglio dei Ministri ha preso atto delle dimissioni del sindaco. A marzo si voterà per la nuova amministrazione. Ci sarà un commissario ordinario per alcuni mesi, ma non un un commissariamento lungo di 18 mesi. Proclamata poi una giornata di lutto nazionale per il disastro di Messina, esaminato il piano per il Sud, infine ribadito l'impegno nella lotta all'immigrazione clandestina. Nel 2009 gli stranieri sbarcati in Italia, ha detto Berlusconi, sono diminuiti del 90% rispetto al 2009. Da Palazzo Chigi è tutto, a voi. E grazie Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti. Passiamo alla cronaca. Si parlava appunto della proclamazione del lutto nazionale per Messina. Domani si terranno i funerali delle vittime della frana che ha devastato la zona sud della città. L'intera giornata appunto sarà segnata dal lutto nazionale. Le vittime finora recuperate sono 28, una non è ancora stata riconosciuta. 20 le persone ricoverate in ospedale. Dalle 9 in corso in prefettura un vertice dell'unità di crisi per predisporre i documenti necessari ad ottenere i finanziamenti del Fondo di Solidarietà Europeo per le vittime dei disastri. Ma il dissesto del territorio siciliano non è tanto differente da quello lombardo, almeno secondo un dossier di Legambiente, il servizio. Se si parla di rischio idrogeologico, la Lombardia non è seconda a nessuno. Ha il 60% dei comuni a rischio, cioè 914 su 1500, e molti di questi sono abbandonati a se stessi. Come avviene nell'Oltrepò Pavese, ce lo racconta Damiano Di Simine di Legambiente Lombardia. È un territorio molto piccolo della Lombardia, ma in cui, pensate, sono censite qualcosa come 3400 frane attive, dato che fa molto riflettere, perché proprio i comuni dell'Oltrepò Pavese, che sono comuni molto piccoli e spopolati, sono i comuni che ci segnalano una situazione anche di maggior precarietà dal punto di vista delle strutture per la prevenzione e la protezione civile. Quindi sicuramente è una situazione che assomiglia moltissimo ai noi al contesto in cui si è verificata la catastrofe messinese dei giorni scorsi. In Lombardia non si costruisce abusivamente da anni. Spesso, però, i piani regolatori vengono fatti chiudendo non uno, ma tutte e due gli occhi. E così più della metà dei comuni lombardi ha fabbricati industriali costruiti in zone rischiose. Avviene a Sondrio, a Bergamo, ma anche Milano non è messa bene. Cosa manca dunque alla Lombardia? Manca una pianificazione generale, ancora Di Simine. A livello di ogni comune dovrebbero essere attivate delle strutture di emergenza, di allerta, di allarme rapido, che ai noi risultano realizzate soltanto in pochi comuni, oltre che delle delocalizzazioni, intendiamoci, le frane cadono. L'importante per la messa in sicurezza del territorio è la delocalizzazione di tutto ciò che si trova esposto al rischio di una frana o di un'alluvione. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E abbiamo parlato nei giorni scorsi della sentenza per il G8 di Genova che ha riguardato gli ex vertici della polizia. Oggi è arrivata un'altra sentenza sul fronte dei manifestanti. 10 condanne e 15 tra assoluzioni e prescrizioni per i disordini di piazza avvenuti nel luglio 2001 a Genova durante il G8. La sentenza è stata emessa nella tarda mattinata dalla Corte di Appello. In primo grado erano stati condannati 24 dei 25 imputati. Complessivamente in appello sono stati inflitti 98 anni di reclusione. Il sostituto procuratore generale aveva chiesto condanne per 225 anni di carcere. La pena più pesante è stata emessa nei confronti dell'anarchico Francesco Puglisi, che è stato condannato a 15 anni, 4 anni e mezzo in più rispetto alla sentenza del tribunale. Era accusato di devastazione e saccheggio. Il 20 ottobre inizierà il processo d'appello per le violenze alla caserma di Bolzaneto. Il 20 novembre è quello di secondo grado per il blitz alla scuola Diaz. Andrea Ferro, GR24, Sole 24 Ore, Genova. E ora un'altra storia di cronaca, anche questa almeno in parte arriva da Genova. È una storia molto intricata che riguarda una nota famiglia. Lui, omosessuale, unito ad un cittadino brasiliano a Londra, non ha voluto rinunciare alla paternità e ha avuto due figli ricorrendo all'utero in affitto. La sorella lo ha portato però in tribunale perché dice i nipotini non possono accedere al patrimonio di famiglia. Non è la solita storia di eredità contesa quella che vi stiamo raccontando, e questo perché di ordinario in questa storia c'è ben poco. Intanto i protagonisti sono il principe e la principessa Doria Panfili. Jezin, sposata regolarmente, madre di 4 figli, giura di aver portato il fratello Jonathan davanti ai giudici non certo per sete di eredità, ma perché, dice, teme che le vere madri dei nipotini possano un giorno farsi vive e reclamare l'eredità. In effetti la legge italiana non tutela i diritti dei donatori, ma solo quelli delle partorienti. A rendere più complicata questa storia, le possibili conseguenze di una sentenza sfavorevole a Jonathan. Se i giudici dovessero sostenere che sì, quei bambini non sono suoi figli, cosa ne sarà di loro? Verranno affidati ad una nuova famiglia? Ospitati in un istituto? Restituiti alle madri naturali? Peraltro, i bambini di madri ne hanno ben due, perché la donatrice dell'ovulo è una donna diversa da quella che ha prestato l'utero. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo molto molto lontano, ci spostiamo sulla Luna. Che cosa succede oggi, Gigi Donelli? Sì, buongiorno Simone, un saluto a tutti. Esattamente tra 8 minuti è previsto l'impatto dunque di un esperimento che sembra effettivamente partorito un po' dalla mente di Jules Verne. Il razzo Centauro, che è stato lanciato 100 giorni fa dalla Florida, deve centrare l'obiettivo nei pressi del polo sud lunare. Il Centauro di fatto è un serbatoio ormai vuoto, pesa 2 tonnellate e dovrà sollevare una grande nuvola di polvere che sarà analizzata nei 90 secondi di vita che rimangono dalla navicella che sta seguendo appunto il razzo Centauro. Perché è così importante? La speranza è di trovare sulla Luna quelle conferme sulla presenza dell'acqua che potrebbero di fatto trasformare anche il futuro della prossima esplorazione spaziale. Quindi ancora qualche minuto di attesa per sapere l'esito, che naturalmente poi la NASA analizzerà e divulgherà nei prossimi giorni. Benissimo, grazie Gigi Donelli per questo aggiornamento e insomma naturalmente vi terremo aggiornati su tutto questo. Adesso passiamo a parlare del Pakistan e delle tensioni che ci sono nella zona. Questa mattina un nuovo attentato. E di almeno 42 morti e oltre 100 feriti il bilancio di una carneficina compiuta da un kamikaze islamico nel giorno di preghiera musulmana del venerdì a Peshawar nel Pakistan settentrionale. Secondo la polizia locale, un attentatore suicida a bordo di un camioncino carico di tritolo si è fatto esplodere contro un minibus pieno di passeggeri nei pressi di un affollatissimo mercato. Secondo la polizia dell'informazione locale, l'intento dei terroristi potrebbe essere stato quello di attaccare il palazzo che ospita l'Assemblea Generale della Northwest Frontier Province, dato che la bomba è scoppiata a poca distanza dalla sua sede. Poche ore prima, a pochi chilometri di distanza dal luogo dell'attentato, 6 camion carichi di carburanti e beni destinati alle forze occidentali in Afghanistan sono stati attaccati dai miliziani islamici. I camion di una compagnia privata pakistana sono stati dati alla fiamma prima dell'alba mentre erano parcheggiati davanti ad un albergo. Adifat Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. Lo sport adesso, la nazionale partirà tra poco per Dublino, dove domani affronterà l'Irlanda nella penultima partita delle qualificazioni mondiali. Agli azzurri basta un pareggio per staccare il biglietto per il Sudafrica. Perso Marchisio, che è tornato a casa per un infortunio, Lippi dovrebbe schierare in attacco Iaquinta ed uno tra Gilardino e Di Natale. Questa sera l'Under 20 cerca in Egitto lo storico accesso alla semifinale mondiale contro l'Ungheria. E intanto arriverà tra oggi e lunedì la decisione del CONI sul caso doping che ha investito il capitano della nazionale, Fabio Cannavaro, il giocatore della Juventus. A fine d'agosto aveva assunto un farmaco al cortisone per una puntura d'ape, ma la società, dopo aver informato il CONI, non aveva completato l'invio della certificazione per un mero disguido. Questa è la difesa della Juventus, affidata all'avvocato Michele Briamonte, che si dice fiducioso su un esito favorevole dell'inchiesta della procura antidoping. Fabio Cannavaro, capitano della nazionale e difensore della Juventus, uscirà certamente pulito da questa vicenda e ne siamo tutti felici per ovvi motivi. In questa storia però ci sono tanti punti oscuri, anzi punture che confermano come nello sport, a proposito di doping, ci siano due pesi e due misure. La positività di Cannavaro al cortisone, per esempio, arriva 40 giorni dopo il prelievo. Tanti per un test di facile attuazione, ma il comportamento più sorprendente è quello del CONI. In assenza di comunicazioni ufficiali, il CONI invia a Torino il capo della procura, Ettore Torri, per parlare sia col calciatore che con la società. Siete comodi? Un caffè? Ma che gentilezza, che sensibilità. Andrebbe tutto bene, ma perché solo con Cannavaro? Perché ad esempio atleti come Basso Di Luca sono dovuti andare di corsa a Roma per giustificarsi mentre il tantan mediatico li scorticava? Il ciclismo sarà anche screditato, ma la legge, a meno che si faccia un lodo anche per i calciatori, dovrebbe essere uguale per tutti. In realtà qualcuno è meno uguale degli altri. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. In chiusura parliamo del Comitato Olimpico Internazionale, che ha un vicepresidente italiano. Mario Pescante è stato eletto questa mattina a Copenaghen, ottenendo 53 voti su 88 alla guida del CIO. È stato confermato per il prossimo quadriennio il belga Jacques Rogge. Le 13:27 minuti, 40 secondi, termina così questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Ceci e con in regia Carmelo Lauricella. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.